Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Gli esami non finiscono mai, siete d'accordo con me? Quale esame vi toccherà affrontare e superare oggi? Ditelo alla Nico 349-238-6666, magari è più di uno, magari uno più difficile di un altro. Intanto che voi ci pensate e vi preparate, saluto il nostro amico del caffè. Noi oggi prendiamo il caffè con il dottor Giampaolo Balzano, che è responsabile dell'unità funzionale di chirurgia pancreatica al San Raffaele di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottor Balzano, di solito lei a che ora entra in sala operatoria? A proposito di esami, ecco. La sala operatoria, l'attività della sala operatoria inizia ufficialmente alle 8, il paziente arriva un po' prima, però c'è tutto il tempo di preparazione. Diciamo, noi chirurghi dobbiamo essere presenti per valutare che non ci siano errori nelle procedure, che tutto sia sotto controllo, quindi dobbiamo essere presenti, ma in realtà è l'anestesista che è il padrone della prima parte della sala operatoria, perché deve preparare il paziente ad affrontare e a sopportare meglio le conseguenze dell'operazione. E per cui, diciamo, la nostra attività chirurgica comincia nei nostri interventi, che sono interventi grossi come quelli al pancreas, dopo le 8.30, verso le 8.45, noi cominciamo a lavorare dal punto di vista chirurgico. Voi riuscite, dottor Balzano, a prevedere quanto durerà l'intervento oppure... Sì, con una buona approssimazione, ovviamente possiamo sbagliare anche noi, questo, e poi ci fanno presente i nostri errori, chi deve gestire la programmazione della sala, però insomma siamo abituati, insomma capiamo i tempi, capiamo le difficoltà, abbiamo la fortuna di avere degli esami diagnostici molto accurati che ci dicono quanto sarà difficile quanto il nostro sarà difficile e quanto durerà. Sì. A proposito di intervento, quale migliore occasione di averla qui oggi con me per parlare di una particolare forma di allenamento che riguarda proprio i pazienti che devono sottoporsi a un intervento chirurgico. I ricercatori dell'Università del Michigan hanno creato una sorta di programma di preabilitazione per le persone che devono sottoporsi a un intervento chirurgico. È una sorta di ricetta. Un fitness tracker per monitorare i passi, uno spirometro per migliorare la respirazione, una dieta salutare e disintossicante, niente fumo, niente alcol, il tutto condito da sostegno psicologico per ridurre lo stress. Sono questi gli elementi essenziali di questo programma che arriva dall'America e che è stato riportato da numerosi giornali. Mi sembra bellissimo. Ma infatti è molto bello poi che queste cose che potrebbe consigliare la mamma, devi fare l'operazione e allora devi fare queste cose che poi davvero che siano delle cose molto importanti. Lei ha detto ho colto la consiglia alla mamma, come per dire le mamme sono un po' noiosine, banali. No, non volevo dire questo. No, però allora, è vero. Però appunto questa è un aspetto molto importante. Consideriamo che cos'è davvero la chirurgia. Sì. È un trauma. Più l'intervento è grosso e più questa chirurgia è pesante. Quanto tempo ci vuole per recuperare da un intervento pesante? Nel mio caso, per esempio, in cui faccio le operazioni al pancreas, bene che vada, ci vuole un mese, due mesi prima che il paziente sia nella condizione fisica che precedeva l'operazione. Quindi dobbiamo pensare che la nostra operazione incide pesantemente sul percorso del paziente. Ovvio che poi l'obiettivo è di riuscire a migliorare la vita, però è uno tsunami. È un trauma, per cui bisogna cercare di ridurre le conseguenze di questo trauma. Come si possono ridurre? In tanti modi, sia durante l'operazione, per esempio facendo un intervento meno invasivo, con dei tagli più piccoli, sia dopo l'operazione, cercando di migliorare il recupero dopo l'operazione, ma si è negli ultimi anni focalizzata l'attenzione sulle condizioni del paziente che arriva all'operazione, perché si è visto che le condizioni del paziente sono strettamente correlate alle complicanze dopo l'operazione, ai tempi di recupero dopo l'operazione, e quindi negli ultimi anni si sta cercando anche di migliorare la condizione del paziente, anche da noi. Sì, sì. Si lavora su questo aspetto che è stato trascurato davvero fino a pochi anni fa, ma siccome si è visto che se il paziente arrivava in cattive condizioni poi aveva più complicazioni, certo, Adesso si cerca di lavorare su questo periodo che precede l'intervento. Ovviamente si parla di interventi pesanti, di interventi in cui c'è bisogno poi effettivamente di un grande recupero, ma noi dobbiamo considerare che la chirurgia è un momento di forte stress per il nostro corpo. Il cuore deve essere stimolato a pompare il sangue più velocemente, ad avere una frequenza maggiore. Il respiro è sottoposto a stress, l'intubazione. Io faccio operazioni che mediamente durano 5 o 6 ore, in cui c'è il trauma della ventilazione meccanica. E quindi, diciamo, meglio è la condizione e il paziente gestirà meglio quello. Nessuno di noi affronterebbe una grande fatica, una grande gita in montagna, una maratona senza essere preparato. Ecco, noi ci stiamo convincendo che preparare il paziente a questo stress avrà un esito migliore. Per tutti. Proprio così. Ma questa preparazione da quando parte? E parliamo di interventi grandi, impegnativi, sono interventi in cui c'è un'anestesia totale? Certamente. È un'anestesia generale. Interventi che comportano trauma, appunto perché c'è una grossa incisione, ma soprattutto perché il nostro corpo deve abituarsi alla situazione che noi creiamo dopo l'operazione. Quindi deve fare una grande fatica a riparare i danni che noi chirurghi facciamo, deve lavorare molto per questo. E quindi è sottoposto a fatica, a stress che si trascina per qualche settimana dopo l'operazione. È banale, ma più una persona è in forma, e prima è meglio, si riprenderà dopo l'operazione, ma questo non soltanto per i tempi di recupero, ma anche per le complicanze che ci sono nell'intervento. Quindi il paziente si prepara. Su cosa si basa questa preparazione? Ma quanto tempo prima? Infatti, purtroppo è quanto tempo ci vuole. Perché alcuni interventi si possono programmare, altri no. Se l'intervento deve essere fatto in urgenza, purtroppo non possiamo fare niente. Si salta la preparazione, non si può migliorare, si può soltanto valutare la situazione. Se invece mi posso preparare... Se invece si può preparare, quasi tutti gli interventi hanno un tempo che lo consente, diciamo che il tempo medio che viene considerato è di 4 settimane. Anche in questo studio che abbiamo citato sono 4-5 settimane. Perché così c'è più possibilità di lavorare soprattutto sull'esercizio fisico e sugli altri pilastri di questa preparazione. Su cosa si basa? Il paziente, se migliora l'esercizio fisico, avrà un cuore più allenato, avrà dei polmoni che funzionano meglio, avrà un tono muscolare migliore, perché il tono muscolare si perde in queste operazioni in cui purtroppo c'è un allettamento prolungato. Quindi l'esercizio fisico è uno dei pilastri. Poi diciamo la funzione respiratoria. Purtroppo il fumo è ancora così diffuso che uno dovrebbe cercare di smettere di fumare e fare gli esercizi respiratori se è ancora un fumatore. E non è certo facile, no. Cioè, non glielo diciamo. Ecco, però ricordo, noi abbiamo fatto di recente appunto un'iniziativa Smetti con Mauro, abbiamo seguito nel tempo questo nostro collega che ha aiutato dal centro dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha smesso di fumare, è un fumatore tra parentesi adesso, per stimolare anche gli ascoltatori a seguire il suo esempio. A proposito di fumo, le chiederei di ricordare quanto è importante smettere di fumare per la salute del pancreas. Sì, l'ho messa tutta in positivo, dottor Balzano. Sì, anche se uno non lo sa, ma il fumo danneggia molto il pancreas da due punti di vista. Uno è per una malattia cronica che si chiama pancreatite cronica, in cui non soltanto l'alcol, che è considerato il fattore principale per la pancreatite cronica, ma anche il fumo provoca l'insorgenza di questa malattia irreversibile del pancreas. Ma ancora più importante è il tumore del pancreas, una cosa che ci spaventa molto, e smettere di fumare previene il 30% dei tumori del pancreas. Quindi, ritornando al nostro preallenamento, prima di entrare in sala operatoria, lei ha detto attività fisica, tono muscolare ci guadagna, così anche la salute del respiro. Abbiamo anche visto negli ingredienti della ricetta americana dieta e supporto psicologico. Proprio così, la dieta. Allora, molti pazienti purtroppo quando hanno tumori, quando hanno malattie croniche, arrivano all'operazione in condizioni nutrizionali non adeguate, che comporta un rischio di mortalità aumentato in maniera importante. Quindi malnutriti. Bisogna, l'ideale sarebbe appunto incontrare un nutrizionista qualche settimana prima per migliorare la propria dieta, per usare degli integratori specifici proprio che ci sono prima della chirurgia, che possono migliorare le nostre condizioni nutrizionali, l'attività del nostro sistema immunitario e ridurre quindi le complicazioni. E l'ultimo aspetto è quello dell'ansia, della depressione, anche questo che in certe malattie è più marcata, dovrebbe essere combattuto con degli esercizi di riduzione dello stress, che però bisogna imparare, non è proprio, sono tutti questi interventi di cui abbiamo parlato. Non basta comprenderne la necessità, io penso anche per il paziente e per i familiari del paziente, perché sono l'ambiente in cui il paziente si muove, si nutre, di emozioni di supporto, quindi probabilmente proprio l'ambiente familiare va aiutato e supportato. Cosa si può fare? Il paziente deve essere consapevole, deve partecipare al suo programma di miglioramento, sia dalla parte della decisione terapeutica, cioè qui non è che il chirurgo o qualcuno gli dice cosa deve fare, lui. Ma bisogna condividere questo. E poi partecipare nell'ambito del suo miglioramento della salute, quindi capire quanto è importante che lui si attivi per migliorare la sua condizione preoperatoria attraverso questi presidi che abbiamo detto, e nel postoperatorio altrettanto. Il paziente deve far fatica, deve allenarsi per poter recuperare prima, per avere meno complicazioni, e questo è molto importante. Dottor Balzano, grazie per essere stato con noi. 349-238-6666 per Dillo alla Nico, raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande e noi andiamo avanti. Ed ecco l'appuntamento più atteso, il mini corso per la felicità insieme a Raffaele Morelli. Raffaele, ciao, siamo arrivate alla terza lezione. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Il terzo punto, che direi importantissimo, è quello di lasciare le cose come sono. Quanto abbiamo lottato per dire devo rimettere a posto le cose in famiglia, nei rapporti con gli amici, no? Ieri abbiamo parlato di potatura, no? Sì. Cosa vuol dire potare? Quello che tu, su cui tu ti sei soffermata, era un riferimento dell'antico pensiero cinese. Potare i pensieri inutili. Potare le persone che ci fanno perdere tempo. Adesso proviamo a entrare in un altro regno. Del lasciare le cose come sono. Ma io le guardo. Guardo il rapporto che non funziona e mi dico, guarda, il mio rapporto non funziona bene, non ho niente da dirmi. E soprattutto deve uscire dalla mente lo sforzo di rimettere le cose a posto. Nei momenti difficili, nelle relazioni di coppia, mai, mai, mai cercare di mettere le cose a posto. Mai cercare soluzioni. Mai parlarne con qualcuno. Ma dirsi, ecco, c'è questo disagio. E io lo lascio lì perché il mio compito non è mettere le cose a posto, ci penserà la mia guida interiore, perché ognuno ha una guida interiore. Se non la disturbiamo continuamente col dirci come dobbiamo essere, se potiamo come dici tu, allora ci penserà l'inconscio a rimettere le cose a posto, non noi. Raffaele, in una mail una nostra ascoltatrice ci ha detto che segue i nostri appuntamenti mensili, sta seguendo il nostro corso, mini corso della felicità, e che la tua sola voce è terapeutica. E allora io all'ascoltatrice che gentilmente ci ha scritto e agli amici e alle amiche che ci stanno seguendo dico, insomma, già lo sapevamo perché in Rizza Relax voi avete offrite questo servizio, rilassati con la voce di Raffaele Morelli, è vero? Ma abbiamo a pagina 42 di Rizza Relax, che ne dico adesso, abbiamo col telefonino, con la videocamera, si può fotografare, no? E da lì scatta. E anche questo ci rende felici. È gratuito, scatta, si sente per 9 minuti. Io parlo di una cosa che secondo me è molto importante. Il punto non coinvolto. Vedi, noi, quando una persona viene da me in psicoterapia e mi racconta un suo disagio, dottore, ho sempre l'ansia, dottore, ho sempre la tristezza, io le dico, guardi signora, chiuda gli occhi e cerchi nel corpo un punto dove lei è estranea a tutto questo. Oh, che bello, anche questo io lo faccio oggi. Ecco, è importante. E io per 9 minuti faccio cercare questo punto non coinvolto, perché se trovi un punto che non è coinvolto dal dolore, dal disagio, no, dalla paura, vedrai che da quel punto si parte irradia un'energia, esatto, un'energia, irradia un'energia terapeutica. Dai, cerchiamo il punto. Noi ci sentiamo domani, sempre con Raffaele Morelli e la sua voce terapeutica. A domani. A domani.